Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi voglio iniziare la puntata in maniera diversa dal solito. Voglio farvi ascoltare come prima cosa una clip tratta da un film del 1976. Soper! Soper! Salve! Scusi, mi scusi, ha dimenticato il libro. Pensavo potesse essere importante. Grazie, ciao. Arrivederci. Il suo nome e indirizzo erano scritti dentro. Pensavo si stesse chiedendo come sapevo dove abitare. No, affatto. Grazie ancora. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Mi dice arrivederci, ma non sembra che se ne voglia andare. Perché venendo qui mi sono storto una caviglia e speravo di poterla riposare un momento. Ma non la vedo zoppicare. Io sono un maratoneta. Quando corri per 40 chilometri non cedi al dolore. Mi fa male, ma io non ci faccio caso. E ha vinto qualche volta? Sì. No, non ho ancora corso una maratona intera, però io spero di farlo. Le auguro buona fortuna. Ciao. Molti di voi lo avranno riconosciuto. Si tratta di Il Maratoneta, il film diretto da John Schlesinger, un grande capolavoro, entrato a pieno diritto nella storia del cinema. È interpretato da Dustin Hoffman e Laurence Olivier. È un thriller carico di colpi di scena e di sequenze rimaste molto famose, alcune anche molto crude, come la scena della tortura. Ma quello che a noi interessa oggi è un particolare molto speciale di questo film. Il protagonista Babe, interpretato da Dustin Hoffman, si sta allenando per la maratona di New York, da qui il titolo del film. E lui ha un mito, un vero e proprio idolo, del quale tiene i manifesti appesi in casa e di cui spesso guarda i filmati relativi alle sue imprese leggendarie. Naturalmente il mito è un maratoneta, ma non uno qualsiasi, si tratta del maratoneta più grande di tutti i tempi, che conserva tuttora alcuni dei primati più importanti della storia di questa disciplina sportiva. È lui il protagonista della nostra puntata di oggi. Il suo nome è Abebe Bikila. Dunque, intanto va detto che Abebe Bikila, chi lo conosce lo ha sempre sentito chiamare così, ma sarebbe più giusto dire Bikila Abebe, perché Bikila è il nome e Abebe il cognome, ma nel paese dal quale arriva lui si usa anteporre sempre il cognome al nome, quindi noi continueremo a chiamarlo Abebe Bikila, intanto perché suona meglio, siamo abituati così, e poi per rispetto alle tradizioni della sua gente. Il suo è un paese lontano da noi, ma che per lungo tempo ha fatto parte della nostra storia, l'Etiopia, chiamata anche Abissinia. L'impero d'Etiopia è molto antico, la dinastia che lo governa vanta una discendenza diretta dal biblico re Salomone e il suo imperatore viene definito Negus Negesti, il re dei re. L'ultimo Negus di Etiopia è Tafari Makonnen Wolde-Mikael, che quando sale al trono nel 1930 assume il nome di Haile Selassie, che in etiope significa potenza della Trinità. Il Negus rimane al potere fino al 1974, quando viene detronizzato da un colpo di stato militare. Ma il suo regno, che è durato ben 44 anni, c'è un buco dal 1936 al 1941, quando, a seguito della mobilitazione generale contro l'Etiopia di Mussolini e alla sconfitta delle truppe del Negus, il paese viene annesso all'Africa orientale italiana e diviene una delle poche colonie del nostro paese. Il Duce, in visita all'accampamento eritreo di Monte Sacro, passa in rivista l'inquadramento delle truppe, fatto segno alle più significative dimostrazioni di simpatia. Dopo la sfilata, il capo del governo è stato circondato dagli ascari, che gli hanno reso omaggio vantando una delle loro caratteristiche fantasie e accompagnandolo in questo modo lungo la via del ritorno tra canti entusiastici fino al ponte Nomentano. chissà se quell'entusiasmo era tutto così spontaneo. Comunque, dopo la conquista da parte di Mussolini, Haile Selassie sceglie l'esilio, si rifugia in Inghilterra, rientra in patria dopo 5 anni con la caduta dell'impero coloniale italiano e riprende subito il suo posto sul trono. Diviene oggetto di culto dai seguaci del rastafarianesimo, la fede religiosa che lo venera come un nuovo messia. Bob Marley ne parla molto di Haile Selassie. Intanto Abebe Bikila ha 4 anni quando la sua patria diviene una colonia italiana e ne ha 9 quando ridiventa uno stato indipendente. È piccolo e i suoi ricordi sono pochi. Sa che quando erano una colonia c'era un imperatore italiano, Vittorio Emanuele III, che ha fatto costruire tante strade, 18.000 chilometri di strade sulle quali lui ama correre. Sono una cosa buona, ma essere colonia di un paese straniero è una cosa meno buona. Ed essere liberi non ha prezzo. Lo pensa sempre mentre corre come il vento e nessuno riesce a stargli dietro. La sua è una famiglia molto povera. Suo padre è un pastore e a 17 anni Bikila decide di arruolarsi nella Guardia Imperiale per sostenere economicamente i suoi genitori. L'arma etiope tiene in forma i propri soldati, le truppe praticano moltissima attività fisica e durante le numerose prove inizia a emergere il talento sportivo di Bikila. Si fa conoscere anche per la sua disciplina ferrea, per la sua dedizione, tanto che poco tempo dopo entra a fare parte dell'esercito personale dell'imperatore, di cui diviene addirittura guardia del corpo. Pensate cosa deve essere per lui occuparsi della sicurezza del Negus, considerato da tutti una divinità. Il suo orgoglio di etiope traspare in ogni sua azione, compresa l'attività sportiva, che lui prende come un impegno. Deve fare bene per il suo imperatore e per il suo paese. La sua occasione non tarda a arrivare. Il governo indice una maratona tra tutte le forze armate del paese, una specie di incentivo alla collaborazione tra esercito, marina e aeronautica. Bikila si prepara come al solito, con serietà. Si tratta di 42 chilometri, che non sono pochi, ma lui, come sappiamo, è abituato a correre per le strade costruite dagli italiani, pensando a quanto sia bella la libertà. Bikila fa una gara eccellente, vince con il tempo di 2 ore 39 minuti e 50 secondi. Non sa che tra il pubblico c'è anche un personaggio importante che lo sta osservando con molto interesse. Si tratta di Onni Niskanen, un allenatore svedese di origini finlandesi, incaricato dal governo etiope di reperire potenziali atleti per le Olimpiadi di Roma del 1960. Niskanen ha l'occhio fino e poi i finlandesi sono sempre stati dei maestri, dei precursori nella maratona, pensate a Paavo Nurmi. Si accorge subito che quel giovane alto e magro dalle gambe chilometriche ha della stoffa. Ha gareggiato con un tempo di tutto rispetto, ma può fare meglio se allenato con costanza. Lo avvicina e da quel momento non lo molla più, diviene il suo allenatore. Siamo nel 1956, mancano ancora 4 anni alle Olimpiadi di Roma e sono per Abebe Bikila e per Onni Niskanen 4 anni di lunghi allenamenti, di scelte difficili, di decisioni tecniche, di tattica. Ma soprattutto il resto sono anni nei quali Bikila si prepara in silenzio, senza darlo quasi a vedere, costruendo dentro di sé le basi solide di un vero atleta. Lui lo sa che non è affatto data per scontata la sua partecipazione alle Olimpiadi. Ci sono anche altri atleti in Etiopia. Sono anche loro molto forti e l'allenatore deve tener conto di tutti. Beh, è qui che si mette in mezzo una signora che ha un grande peso nelle vite di tutti noi, la fortuna. Alle gare etiopi di qualificazione per le Olimpiadi Bikila non arriva primo, è stato battuto da un altro Abebe, Abebe Vakhiera. E quindi dovrebbe andarci lui a Roma, ma pochi giorni prima della partenza Vakhiera pensa bene di fare una partita a calcio che gli è fatale, si infortuna malamente. Il posto sull'aereo per Roma a lui riservato passa di diritto a Abebe Bikila. e questo gli dà la possibilità di entrare nella storia. Il gabbiano. Beh, oggi il falco e il gabbiano volano alto, volano in compagnia di un personaggio che spicca un incredibile salto dalla sua terra d'origine, l'Etiopia, per arrivare fino a Roma. Stiamo parlando del mitico maratoneta Abebe Bikila. Siamo nel 1960 e a Roma si tengono i giochi della 17ª Olimpiade. 2500 anni fa Pindaro disse: abbiano tregua gli affanni e le lotte, affinché i giovani si affrontino nelle pacifiche contese dei giochi. 13 giorni prima, sul monte Olimpo, l'ultima sacerdotessa ripeteva nell'antico tempio di Giove l'usanza di accendere il fuoco con i raggi del sole. Panaiotis e Pitropoulos, e dopo di lui oltre 1000 staffette porteranno questo fuoco a Roma. Al Pireo, il porto di Atene, la fiaccola viene imbarcata sull'Amerigo Vespucci. Una nave gonfia di vele come la nave di Ulisse. La grande Olimpiade ha inizio. È la sfilata delle rappresentative di 84 paesi. Avery Brundage, presidente del Comitato Internazionale Olimpico, invita il capo dello Stato italiano a dichiarare aperti i giochi. Proclamo l'apertura dei Giochi Olimpici di Roma, celebranti la 17ª Olimpiade dell'era moderna. Passa infine la bandiera con i 5 cerchi. Viene da Melbourne. In questi giorni è la bandiera del mondo. L'ultimo dei 1198 tedofori è Giancarlo Peris, studente. Ma quanto sono diversi i telegiornali e i giornali radio di oggi. Comunque, i giochi olimpici si svolgono nella suggestiva cornice della città eterna, che è preparata ad accogliere gli atleti di tutto il mondo. Tutti ne sono affascinati, compreso il nostro protagonista Abebe Bikila. Sicuramente lui non ha visto La dolce vita di Federico Fellini, che è uscito da pochi mesi. Forse non conosce il termine paparazzo, appena coniato a indicare quella stirpe di fotografi alla perenne ricerca di scoop dei quali Roma pullula. È molto probabile che non abbia nemmeno la possibilità di passeggiare per via Veneto, la via di Roma famosa in tutto il mondo, culla della vita mondana della città e punto di incontro dell'elite romana. Ma è certo che lo splendore delle sue vie e la cultura che si respira a ogni angolo di strada lo colpiscono enormemente, lui così abituato all'ampiezza delle valli abissine. Abebe Bikila nel 1960 ha 28 anni, è sposato, ha 2 figli e quando non corre la maratona è la guardia del corpo del Negus, il venerato e mitico imperatore etiope Haile Selassie. Si è allenato per 4 lunghi anni, sempre affiancato da Onni Niskanen, il suo coach. E si sente pronto per affrontare quella gara, che per lui non è solo una sfida sportiva, ma anche una corsa simbolo di libertà. Roma è la capitale d'Italia, quella stessa Italia che anni prima è stata un nemico della sua patria, che ha sconfitto e invaso la sua terra, trasformandola in una colonia. And the terraces is swinging. A monkey on the road. Oh. You've seen him on the telly. Oh. So let me introduce. Abebe non nutre sentimenti di odio per l'Italia, sta per gareggiare in una competizione che rappresenta a tutti gli effetti una bolla di pace in mezzo a tutte le grandi tensioni internazionali. Tra l'altro era molto piccolo al tempo delle imprese del colonialismo europeo in Africa, ma ha respirato l'aria della sconfitta del suo paese, e correre sulle strade costruite dai colonizzatori ha sempre avuto un significato preciso per lui, un desiderio di libertà ancora più sentito. E adesso questo desiderio si trasforma in qualcosa di più grande ancora, la voglia di vincere la maratona di questa Olimpiade. Tanto più che questa non è una semplice Olimpiade, viene definita l'Olimpiade perfetta. Pensate, in Italia una cosa perfetta. Due settimane in cui lo sport raggiunge il culmine del dilettantismo e lascia intravedere quello che sarà il suo futuro. È la prima volta che vengono venduti i diritti televisivi. Il doping inizia a inquinare le prestazioni di alcuni atleti, soprattutto quelli dell'Europa dell'Est. Profonde forze di trasformazione preannunciano il passaggio da un mondo vecchio a uno nuovo. Mina al cospetto dei dioscuri la straordinaria umanità della maratona. Bianchi, gialli e neri si lanciano sulla strada, come se l'arrivo fosse lì, invece che a 42 km e 195 metri. La maratona si lascia indietro i secoli del Colosseo. Bonchini sono in testa all'irlandese Messiti, il belga Van der Grieche, i marocchini Ravi e Saudi. E c'è lo sconosciuto etiope di prima. Si chiama Abebe Bikila. E scalda. È il 10 settembre del 1960, la maratona parte, ma c'è qualcosa di strano, di assolutamente anomalo. Nello spezzone che abbiamo mandato in onda viene detto di questo fatto strano, ma forse non si sente bene. Si parla degli atleti in testa che si sono staccati dal gruppo. Fra di loro c'è anche Abebe Bikila e di lui il commentatore dice qualcosa di difficile a credersi. L'atleta è scalzo. È un fatto pazzesco. La maratona, ricordiamolo, è 42 km e 195 metri. Correrla scalzi non è da tutti. Per capire come mai Abebe Bikila non indossi le scarpe dobbiamo fare un passo indietro di alcuni giorni. Sponsor tecnico della manifestazione è Adidas, che fornisce le scarpe agli atleti. Bikila e il suo allenatore Onni Niskanen si recano tra gli ultimi a ritirare le scarpe e purtroppo quelle che sono rimaste a Bikila non calzano perfettamente. Le indossa lo stesso, ma nel giro di poche ore gli procurano una vescica sotto un piede. È un vero guaio, il maratoneta non vuole problemi, è una gara troppo importante, ecco perché in perfetto accordo con il suo coach decide di gareggiare a piedi nudi, passando alla storia come il maratoneta scalzo. Gli atleti partono dal Campidoglio e sfiorano i monumenti più importanti di Roma. La folla è assiepata ai bordi delle strade, incita e applaude tutti, russi, cinesi, inglesi, ma fra gli altri uno attira l'attenzione, non perché sia famoso, non perché sia il favorito, ma perché sta correndo senza scarpe, scalzo, la sua pelle è lucida, i suoi occhi sono profondi, è magrissimo e le sue gambe sembrano quelle di un fenicottero, ma soprattutto è senza scarpe. Qualcuno dice che lui ci è abituato, che al suo paese tutti corrono senza scarpe, chi lo sa, magari è anche vero, ma sta di fatto che Abebe Bikila, che nessuno praticamente conosce, si sta facendo largo nelle prime posizioni. Poi restano in quattro, Kini, Van der Grieche, Ravi e l'Etiope. Al 20° chilometro in testa sono rimasti in due. Il primo è un riconosciuto campione codista, il secondo è proprio lui, Abebe Bikila. In Africa è l'ora della beverata, delle gazzelle e dei leoni. Ravi e Abebe entrano nella notte, ma per loro si illuminano le porte di Roma. Infilano in una tremula galleria di fuoco. La maratona scorre per l'Asia antica. Verso il 30° chilometro Abebe Bikila va in testa. Impone il suo ritmo. Implacabile è il moto regolare dei suoi piedi. Al 20° chilometro sono in due ad aver staccato il gruppo. Abebe Bikila e Radi Ben Amdeselam, un marocchino, anche lui militare come Bikila. C'è un altro aneddoto rimasto nella leggenda. Pare che prima della partenza della maratona, l'allenatore Niskanen consiglia a Bikila di tenere d'occhio il favorito, che è appunto il marocchino Radi, e perché lui lo riconosca gli indica il numero della maglietta, il 26. Ma per qualche motivo sconosciuto Radi non ritira il numero 26, ma il 185. Abebe Bikila passa metà della maratona a cercare tra il gruppo il famigerato numero 26, che chissà da chi viene indossato. Ma intanto guadagna posizioni e solo quando si trova a correre fianco a fianco a Radi lo riconosce e capisce che è lui l'uomo da battere. Radi ogni tanto ha un sussulto, perde qualche metro, si riprende. Adele accarezza l'asfalto. Radi lo percuote con passi sempre più pesanti. Sotto l'arco di San Sebastiano transitano atleti con distacchi incolmabili. Qualcuno è spento dalla stanchezza, ma va avanti. Chiunque termina la maratona è un vincitore. Manca un chilometro al traguardo. E adesso Radi deve lasciare che Abebe vada da solo a vivere la fantastica notte. Le foto dell'epoca le ritraggono l'uno davanti all'altro. A brevissima distanza, prima il numero 11 di Abebe e subito dietro il 185 di Radi. Ma il marocchino intanto ha esaurito fino all'ultima goccia di energia. Non ce la fa più, il passo diventa pesante, dice il radiocronista. E Bichila fa partire una progressione inarrestabile che lo porta alla vittoria della medaglia d'oro. Stabilisce il nuovo record del mondo con 2 ore, 15 minuti e 16 secondi. Radi arriverà 26 secondi dopo, ancora quel numero, il 26 che lui aveva cercato per tutta la gara. Abebe Bichila è medaglia d'oro nella maratona alle Olimpiadi di Roma del 1960 ed è la prima medaglia d'oro di tante che ne arriveranno, ma è la prima medaglia d'oro di un africano ai Giochi Olimpici, primo maratoneta scalzo della storia. Old pirates, yes they rob I. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Il falco e il gabbiano. Il falco e il gabbiano racconta di colpi d'ala. Questa volta il nostro protagonista dà un colpo d'ala non solo metaforico ma reale. Stiamo raccontando la storia di Abebe Bichila, il maratoneta scalzo, l'uomo che arriva da lontano, dall'Etiopia, per correre 42 chilometri della maratona alle Olimpiadi di Roma nel 1960, la guardia del Negus, del mitico Haile Selassie, che si trova da non favorito alla maratona nella gara più difficile delle Olimpiadi, la più lunga, quella massacrante, e lui non è certo uno dei favoriti. E intanto si presenta alla partenza senza le scarpe. Lui si stacca dal gruppo al 20° chilometro e piano piano in testa sono sempre più pochi, fino a che rimangono lui e il favorito, il marocchino Radi Ben Abdeselam. Ma lui lo batte all'ultimo chilometro con una progressione inarrestabile. Abebe Bichila, l'etiope arrivato dalla povertà africana, che a casa sua, in patria, è la guardia del corpo di Haile Selassie, del Negus. E lui varca da solo l'arco di Costantino al calar della notte e conquista la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma, soprattutto la prima medaglia d'oro del continente africano. E questo è un primato che nessuno potrà mai portargli via. La radiocronaca originale dell'epoca è di Nando Martellini ed è molto emozionante. Ecco, il concorrente che vince la maratona delle Olimpiadi è a non più di 100 metri dall'arrivo. Ha la maglia verde, è il numero 11 ed è l'etiope Abebe. È a 50 metri dal traguardo. Medaglia! Giochi della 17ª Olimpiade, prova di maratona. Primo Abebe, Etiopia. Prima di tante medaglie che l'Africa raccoglierà alle Olimpiadi, soprattutto nel mezzo fondo, nel fondo e quasi sempre nella maratona, Bichila diventa subito un eroe. Da atleta sconosciuto, da uno dei tanti partecipanti alla corsa, si trasforma a simbolo dell'Africa libera. È il corridore che al posto delle scarpe ha le ali ai piedi e che conquista le prime pagine di tutti i giornali. Ma quello che accade in Italia non è niente in confronto a quanto lo attende al suo rientro. Possiamo solo immaginare cosa significhi per gli etiopi la vittoria di Abebe Bichila proprio in Italia. È il simbolo del riscatto di tutto un popolo di fronte al colonialismo europeo. È una dichiarazione di indipendenza e di fierezza, talmente forte che non ha neanche bisogno di un paio di scarpe. Bichila viene ricevuto subito al suo rientro dal Negus. È un incontro molto commovente il loro. Haile Selassie è entusiasta della gara, del risultato, di come il suo soldato si sia comportato e dell'immagine che ha dato di sé e del suo paese. Siamo sicuri che avrà ricompensato Abebe Bichila in tanti modi diversi. Non ci è dato di saperlo, a parte la gloria di cui tutto il paese l'ha coperto. Ma c'è un regalo, qualcosa di molto particolare che avrà un ruolo decisivo nella vicenda del maratoneta. Gli regala una nuova fiammante Volkswagen Beetle, il famoso Maggiolino. You better watch your step and keep your distance. You gotta understand, a fall gets too dangerous. It's two steps back and another won't bite. You don't ever stop, don't matter if it's day or night. Come dicevamo, il nostro maratoneta scalzo ha 28 anni, non è giovanissimo, però la disciplina della maratona ha atleti molto più longevi, si corre anche fino a 40 anni. E quindi Abebe, che non ha ancora finito di festeggiare il suo mitico rientro in patria, si mette già in mente di avere un altro appuntamento con la storia, a cui non può mancare, le Olimpiadi di Tokyo, che saranno nel 1964. Ancora non si sono spenti i riflettori sull'Olimpiade perfetta, la meravigliosa Olimpiadi di Roma, che tra l'altro ha visto trionfare atleti stupefacenti come il nostro Livio Berruti, che vinse i 200 piani, primo europeo della storia tra l'altro a spezzare il dominio dei nordamericani. Non si è ancora spento quell'eco e già si parla di Tokyo. Ma a Roma ci sono state vittorie mitiche. A Roma ha debuttato e vinto il mitico Cassius Clay, che diventerà Muhammad Ali, Wilma Rudolph, la gazzella nera, che trionfa nei 100 e nei 200 e nella staffetta con un apparecchio ortopedico ai piedi. Sono state Olimpiadi grandiose e la loro eco si fa sentire ancora. Ma Abebe Bichila non è uno che si siede sugli allori, ha già in mente Tokyo, vuole doppiare il suo successo e quindi inizia un allenamento ancora più duro con Onni Niskanen, anche perché stavolta lo conosceranno gli avversari. Lui percorre chilometri e chilometri sui meravigliosi altopiani etiopi e quando non corre guida il suo maggiolino, il regalo più bello del Negus, il suo status symbol. Gli piace rilassarsi, si sposta in auto verso zone dove non ha ancora corso. La sua determinazione e i duri allenamenti a cui si sottopone però si scontrano con il primo problema di salute, all'appendicite. Ogni sforzo per far rientrare l'infiammazione e scongiurare un intervento è vano. Abebe deve operarsi e questo non ci voleva, perché siamo a solo 6 settimane dall'inizio delle Olimpiadi e la convalescenza la devono fare anche i campioni. Un'appendicite nel 1964 non è l'appendicite di oggi. Porta via del tempo prezioso agli allenamenti tutto questo, ma comunque riesce a essere pronto per l'apertura della 18ª Olimpiade. Siamo nel 1964, è il 10 ottobre. October the 10th, 1964, 2 o'clock in the afternoon, and the moment has finally arrived, the moment we have been waiting for here in Tokyo. Greece, the first nation to ever hold Olympic competition. Coming onto the playing field now, on this beautiful sunshiny day in Tokyo, with upwards to 83,000 people jam-packed here at National Stadium. Colorful contrast with the green infield and the brown clay and cinder track. La cerimonia di apertura della 18ª Olimpiade dell'era moderna viene trasmessa in Mondovisione ed è a dir poco stupefacente. Quando il braciere viene acceso, 10.000 tamburi iniziano a rullare. Più di 20.000 palloncini vengono liberati nell'aria e 5 jet con le loro scie di fumo disegnano nel cielo gli anelli olimpici, simbolo di pace, mentre in tutto lo stadio si diffonde un intenso profumo di crisantemo, che nel Giappone è il fiore nazionale. Il teodoforo che accende il braciere è nato a Hiroshima il 6 agosto 1945, un'ora esatta dopo il lancio della bomba atomica. Questa è un'Olimpiade storica, mai come in questo momento i 5 cerchi vogliono dire pace, la crisi di Cuba è lontana Kennedy è stato ucciso, ma tutto il mondo vuole e cerca la pace, e tutto il mondo le vede queste Olimpiadi, perché il satellite statunitense Syncom III per la prima volta riesce a diffondere le gare. Abebe Bikila sa benissimo che i riflettori sono puntati su di lui e sulla gara che disputerà. Intanto tutti si domandano se anche questa volta correrà scalzo e se la sua forma fisica non perfetta a causa della recente operazione all'appendice gli consentirà di ottenere una prestazione all'altezza di 4 anni prima. Sulla linea di partenza della maratona sono presenti 68 dei migliori maratoneti del mondo. Ma solo 2 di loro decidono di prendere l'iniziativa e di condurre la gara. Uno è l'australiano Ron Clark, che ha sempre più dimestichezza col cronometro che con le linee del traguardo, e l'irlandese Jim Hogan. Abebe Bikila li segue, rimane incollato a loro e li studia attentamente. Questa volta corre con il numero 17, evidentemente non è superstizioso, e indossa anche delle magnifiche scarpe bianche che esaltano il colore della sua pelle lucida. Siamo al 20° chilometro e l'etiope decide di essersi riposato abbastanza, cambia marcia, inizia a affondare di più il passo e comincia a staccarsi dagli altri. Metro dopo metro il distacco aumenta, fino a quando Abebe Bikila si trova da solo a correre per le vie di Tokyo. Ci sono 80.000 persone che lo stanno seguendo e tutti allungano il collo per poterlo vedere almeno un attimo, quel fenomeno di uomo che sta per compiere un'impresa mai riuscita fino a quel momento. Lui non sembra particolarmente affaticato, corre da oltre 2 ore, ha già percorso 40 chilometri, ma non dà alcun segno di cedimento. Questa è la radiocronaca originale dell'epoca, l'entusiasmo alle stelle, e Abebe Bikila fa il suo ingresso trionfale nello stadio olimpico di Tokyo. È da solo e non sembra assolutamente provato. Dopo aver tagliato il traguardo si mette a fare alcuni esercizi di stretching e a chi gli chiede se è stanco risponde: avrei corso ancora una decina di chilometri. Il suo tempo è superlativo, 2 ore 12 minuti e 11 secondi. Cioè batte se stesso di oltre 3 minuti e ovviamente stabilisce il nuovo record del mondo. Conquista la sua seconda medaglia d'oro e diventa il primo atleta al mondo ad aver vinto la maratona in 2 Olimpiadi di seguito. Primato che resterà ineguagliato fino a quando Waldemar Cierpiński, atleta della Germania dell'Est, non riuscirà a conquistare la medaglia d'oro a Montreal nel 76 e a Mosca nell'80. Ma Abebe Bikila è il primo maratoneta al mondo a compiere un'impresa tanto ardua e questo primato non glielo potrà togliere nessuno. Ancora più della precedente vittoria, l'arrivo ad Addis Abeba è trionfale. Il giovane etiope ormai è acclamato come un eroe nazionale e il Negus Haile Selassie gli conferisce un altro enorme onore. Lo nomina sergente dell'esercito imperiale. Beh, se pensate che Abebe Bikila sia soddisfatto, state sbagliando. Lui è campione olimpico per 2 volte di fila. 2 medaglie d'oro fanno bella mostra di sé in casa sua. È un eroe acclamato in tutto il paese e l'imperatore lo adora. Ha una bellissima famiglia, una professione di grande prestigio. Ma lui continua a allenarsi, perché sta già pensando alle Olimpiadi di Città del Messico. Saranno nel 1968, ma lui vuole esserci. È molto fiducioso perché Città del Messico si trova più o meno alla stessa altitudine di Addis Abeba e quindi per lui sarà come correre a casa. Ma questa volta non va come lui sperava, perché ha un brutto incidente. Ha una frattura del perone nel 1967, rimane fuori combattimento, gira tutto il mondo per curarsi, perché è lo stesso imperatore che lo manda dai luminari più in vista perché rimettano in piedi il suo campione, ma il dolore non passa. Lui non si lascia abbattere e si presenta comunque ai nastri di partenza di Città del Messico con un unico obiettivo in testa: difendere il suo titolo. Beh, anche questa Olimpiade, come le precedenti, è un evento storico, ma anche controverso, perché 10 giorni prima dell'apertura dei giochi nella Piazza delle Tre Culture a Città del Messico, un gruppo di studenti manifesta pacificamente contro la grossa spesa che il governo del presidente Gustavo Díaz Ordaz ha sostenuto per costruire gli impianti dei giochi. Le Olimpiadi sono anche propaganda per un regime o per un sistema. I soldati cercano di disperdere i dimostranti, aprono il fuoco ad altezza d'uomo, provocano una strage di cui non verrà mai reso noto il numero dei morti. Abebe Bikila vive tutto questo fermento, ma intanto il suo perone lo fa soffrire. Partecipa ugualmente alla maratona, ma il dolore arriva subito, dopo pochi passi. Bikila resiste, ma poi si rende conto che non può farcela. Al 17° chilometro abbandona la gara, ma prima si rivolge al suo compagno di squadra, che si chiama Mamo Volde, e gli dice: non posso continuare a correre, la responsabilità di vincere la medaglia d'oro per l'Etiopia è sulle tue spalle. Volde pochi giorni prima ha vinto l'argento nei 10.000 metri dietro a un keniano che si chiamava Temu, e quindi è un po' stanco, ma lo sta incitando il suo collega, che è un mito vivente, e quindi non stabilisce il record del mondo, ma ce la fa e vince la sua medaglia d'oro. Sfuma così la speranza di Abebe Bikila di fare tris, un primato che difficilmente sarebbe stato mai battuto e forse neanche eguagliato, ma la vita ha in serbo per lui una nuova prova e molti record da battere. Primo tra tutti quello con se stesso. E nel 1969, l'anno dopo le Olimpiadi, Bikila sta guidando il suo maggiolino, il suo dono del Negus, e non sa ancora che il destino lo attende al varco. Per evitare un corteo di studenti che stanno protestando e che sbuca all'improvviso da una curva della strada, Bikila perde il controllo dell'auto. Finisce in un fosso con le gambe intrappolate. My journey as a marathon runner began in the Golden Hills of Abyssinia. The Emperor is sending you to England. All will be fine. His legs, he will never use them again. Queste gambe non correranno più. Le gambe del maratoneta più grande della storia, dell'eroe nazionale Abebe Bikila. L'Etiope rimane in vita, ma è tetraplegico, completamente paralizzato dalla testa in giù. Lui non si dà per vinto. Lontano dallo sport non riesce a stare. Se non può più usare le gambe, userà le braccia. Inizia a gareggiare nel tiro con l'arco, nel tennis da tavolo e perfino in una gara di slitte in Norvegia che gli organizza il suo amico di una vita e allenatore, Onni Niskanen. Nel 1972 partecipa addirittura alle Paralimpiadi di Heidelberg. Gareggia nel tiro con l'arco. Muore l'anno successivo. Ha solo 41 anni e la sua vita viene stroncata da una emorragia cerebrale dovuta alle complicazioni dell'incidente. L'imperatore Haile Selassie indice un giorno di lutto nazionale e intitola lo stadio di Addis Abeba al suo nome e alla sua memoria. Pensiamo anche noi che sia proprio vero quello che hanno scritto su di lui. A nessuno calzano di più le parole che sono il motto olimpico: Citius Altius Fortius. Più veloce, più alto, più forte. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala. Hanno volato in alto, hanno fatto cose che hanno lasciato un segno. Sono storie di chi è riuscito, di chi ha tentato, di chi ha avuto cadute e risalite. Perché ciascuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, ma può anche dare il colpo d'ala che lo porta a volare in alto. Come il falco e come il gabbiano. Se volete mandarci i vostri commenti o segnalarci vite su cui puntare il microfono, scriveteci o scrivetemi. Il falco e il gabbiano @radio24.it, oppure su Facebook, insomma, se volete mi trovate. A domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.